deciderlo io. Se questa pioggia è un addio, una partita di scacchi, potevi essere tu il mio asterisco a menù. Mi hanno fregato i tuoi occhi. Dovrei cambiare divano, ma faccio finta di niente, perché la mia verità è che ti amo da sempre. Cadono le cose, cadono e le persone si innamorano e poi si baciano. A volte gli atomi impazziscono, le mani tremano e la paura se ne va. Eccomi amore, eccomi, io pianto di nascosto lacrime che neanche immagini, come supereroi che ammettono di essere fragili e intorno crolla la città. Amami e complichiamo tutto. Mi piacerebbe, lo sai, capire bene chi sei per non commettere errori. L'amore è fatto così, arriva il mercoledì, poi ti nasconde le chiavi. Se vuoi ti presto il coraggio, se vuoi far finta di niente. Magari poi te ne vai, ma io ti amerò sempre. Cadono le cose, cadono e le persone si innamorano e poi si baciano. A volte gli atomi impazziscono, le mani tremano e la paura se ne va. Sto lacrime che neanche immagini, come supereroi che ammettono di essere fragili e chi la salva la città. E intanto gli occhi aspettano e chiedono un bacio all'infinito. Le stelle gli rispondono, l'amore era nascosto dietro un dito. E noi come funamboli, che stupidi cercandoci. Cadono le cose, cadono e le persone si innamorano.